ne scendono tutte le antenne. Ciao Nicola, hai visto la buriana in arrivo? Curire, sta arrivando il temporale. È entrato anche Antonello. Antonello, adesso te ne vola tutto, mi te ne volano le corna dal tetto. Se mi ha buttato fuori in terra, che cosa mi ha buttato fuori? Tutte le tutti di plastica che c'erano, che dovevo buttare cazzo nella mondezza. Ho chiuso il tutto. Ogni basata arrivata, poi c'è un cielo vero che non è idea, se tu guardi dalla parte di Usino. Antonello, lo copi Nicola Lupo Grigio? Non lo so, fallo parlare. Assolutamente una ruba qua. Ho messo la NL, Antonello. ANL Noise Blanket, perché qua c'è un crepitio dovuto dal vento. Dovuto al vento. Allora Nicola ha provato niente, quindi sta provando a cambiare antenna. Ma tu pensi, io stavo guardando lo smartphone, stavo guardando le notizie. No, a un certo punto vedo che la camera è diventata buia, sembrava notte. Ho detto, ma che cavolo è successo? E ho visto il cielo plumbeo, apro la finestra e sento questa buriana, si stava volando di tutto, piantine, bottiglie di plastica, pezzi di cartone, sta volando di tutto, ecco. Me ne sono accorto, infatti, sì. Ascolta Antonello, sto utilizzando un Lafayette, sto parlando di lato, dei tre quarti con volume normale di voce. Dimmi se sta andando male, se c'è qualche difetto, poi ti dico perché. No, sta andando bene, perché mi venerei male? Sì, perfetto di modulazione. No, perché questo apparato si è fatto la doccia l'altro ieri. Ho tolto una cosa dal friggere, era acqua ghiacciata, praticamente si è fatta tutta la doccia di acqua ghiacciata al baracchino, che parzialmente era protetto da un borsone che uso per portare baracchino e antenna, capito? E solo che l'ho dovuto asciugare, l'ho lasciato 24 ore e tanto in caso si asciuga, poi ieri gli ho dato una bella scaldata modulando, gli ho dato una bella scaldata, è diventato bello caldo caldo. Allora vediamo se Nicola ha cambiato antenna. Nicola, via avanti. Antonella, hai copiato? No, assolutamente. Nico, non so se tu lo copi, però lui non ti sente per niente. Conta che adesso c'è un macello atmosferico che non ti dico. E qua arriva anche a Santiago 7, questa specie di quadrame atmosferico. Scaricamenti che sono un fulmine, una passa all'altra. Dalla parte tua è comunque, non dalla parte mia, quindi se non li usino. Ah, cioè tu riesci già a vedere i fulmini all'orizzonte, perché sei in alto, quindi zona sorso senno, così è. È strano perché il vento arrivava dalla parte tua, lo sai, il vento arrivava da, come se arrivasse da sud, non proprio sud, però siamo lì. Succedo, è tutto vero, dalla parte di cosa, di sorso senno e uso, ma nero, tu non hai idea, se tu ti guardi sotto a casa tua, vedi i volumi neri, vogliono venire qui, perché non è. Invece dalla parte di Alghero, cosa del genere, tutto a posto, non c'è nulla, non piove per niente Alghero, non c'è manco una nuvola. Caspita che rumoraccio che c'è, veramente fastidioso, vediamo se riesco a mettere un po' di squelci. E quindi Nicola, niente di fatto, Antonello non ti copia, ma le condizioni tue sono le solite, non avevi poi messo niente sul tetto, post 110%, no? Attento Lupo Grigio. Allora, io uguale a prima, circa 9, 8,5-9, dai, questo è un po' tirchio. Ti dicevo, Nico, ma tu post 110%, sul tetto poi non avevi piazzato niente? Ah, quindi non siete riusciti nemmeno a completarlo, confermi? Ah, ho capito, cioè dovevate iniziare, però per fortuna, qua Nico, qua l'hanno fatto, però chi l'uno, chi l'altro, o per una ragione o per l'altra, tutti scontenti. Chi voleva una cosa magari non l'ha avuta, chi voleva i portoncini coi bentati non li ha avuti, chi voleva gli infissi, come nel nostro caso, non li ha avuti, più tante altre piccole fregaturine, cose fatte un po' arraffazzonate o mal definite. Diciamo, il grosso c'è, però diciamo non tutti sono rimasti contenti, ecco, anzi forse pochi contenti, pochi. Bel pasticcio. Ascoltate, volete provare in FM per vedere se Antonello ti tira fuori? Naturalmente mettendo un po' di squelce, tanto da togliere il correme di fondo. Antonello, ne hai voglia? E qual è il problema? Perché le scariche saltano 9:10, vengono di giù. Ok. Ah no, e allora non lo potrei mai copiare. Caspita, 9:10 di scariche, credo di averle forti io. Conta che Antonello è in alto, Pompone è in alto, porca miseria. Poi c'hai anche i traliscii dell'alta tensione, non distanti, e quindi si moltiplica. Ma tu che apparato stai usando, quello buono oppure un normale baracchino? Che io? Ah? Ma io? Ehi, cosa stai usando, K oppure baracchino? Il 140 sto usando. Ma se avessi un baracchino normale migliorerebbe la ricezione o no? Beh, penso di sì. Ma se faccio la prova, qual è il problema? Se mi lasci il tempo. Aspetta, faccio spazio. C'è l'alimentatore. Siccome c'è un baracchino di riparazione, un Lear International 3, sono riuscito a farlo funzionare a togliere lo scratch e farlo funzionare in eccezione. Ma se manca solamente una cosa, tabellarlo per tutti i 226 canali. Aspetta un attimino che due minuti, metto il coperchio sopra e poi ci piazzo le... cioè niente, là, faccio direttamente sopra la... ok, due minuti. Proviamo un po'. E quindi dico, da, vi siete salvati in corner, gira gira. Ma questo incendio dove è stato? L'ufficio tecnico, ma quale? Quello in Viale Mameli per caso? Perché non me lo ricordavo nemmeno sto fatto. Nicola, guarda, il rumore è tale che mi sta sparendo. Adesso Antonello mette un baracchino normale, se vogliamo provare in FM, anzi prova a passare direttamente, vediamo se ti tiro fuori meglio. Allora, la modulazione è già superiore come volume e come capibilità. Però queste scariche sono terribili, comunque già ti copio meglio di prima non era capibile. Vediamo se è arrivato anche Pomponio. Ega, iniziamo male, Antonello, iniziamo già male, sei troppo forte, troppo forte, troppo eco, troppo tip, troppo tutto. No, ma il bip è il tuo, il bip è il ZGM95, no? Vediamo se riesce a tirare fuori Nicola adesso. Nicola, vai avanti. Vabbè, niente. Nico, in regia dicono che non c'è niente da fare. Sì, comunque è rimasto... Vabbè, insomma, fatto sta, diciamo, morale della favola, che qua, nonostante il 110 non l'abbiate fatto, però antenna sopra non è messo ancora, dai. per il traffico che c'è, gira gira, io non mi sento nemmeno di consigliarti di metterla, non saprei dirti, Nico. Per oggi non è raccomandabile. Antonio, adesso speriamo che venga un bel fulmine qua, mi diretto, proprio mi zugapo. Ah, quindi o rinsavisco del tutto o mi sa bideggia del tutto. Lo so, ho visto certe foto su internet, per carità. Ho visto villette con i muri esplosi, cioè dove passava il cavo elettrico, il muro spaccato e le pareti separate di 10-20 centimetri, cioè i muri scoppiati. No, non ci voglio nemmeno pensare. No, adesso è il momento ideale, sali sul tetto, adesso così te ne porta via il vento, ti trovo una tipo aquilone mi ha attaccato al cavo. Come quella cosa di Superman, la frase. Quello cos'è? È un aereo, no, è un meteorite, no, è Pomponio. E dove vuoi che vada? Allora, ho dormito mi sono guardato un filmone che non vedevo da 20 anni. Però ho dormito molto da tardi, poi quel raffrescatore d'aria mi ha mezzo congelato, mezzo fatto venire mal di testa, eccetera, quindi ho dormito molto, ma anche un po' male. Sono svegliato tardi, cucinato tardi, tutto tardi, e poi dove vuoi andare? Non vedi che è tutto a rischio pioggia. È arrivato mio cugino da fuori e si è trovato il brutto tempo, sia ieri che sia oggi, altro che andare al mare. Nicola, una curiosità, è da molto che non entravi in radio, a parte ieri. Sì, perché non è cambiato niente, in meglio no, nulla, insomma. Adesso purtroppo qualcuno non è stato bene, insomma la gente non ne ha più voglia, niente un po'. Sai cos'è il CB? I cibi storici sono già un po' grandi, chi più chi meno con acciacchi, gente nuova, giovane, non interessa questo tipo di hobby, ci sono gli smartphone, che come ho detto ieri vivono incollati a questi affari, a questi schermi, a questi teleschermi, quindi vuol capire, capisca, il baracchino è un hobby quasi da sfigati, Ah, sei salito di segnale, non so perché. Un pochino, 9.5 ha migliorato. E cosa ti volevo dire? Sì, le macchine moderne, la sigari funziona sempre sotto chiave, quasi sempre, ma mi ricordo anche quelle di una volta. Infatti io, nella vecchia macchina, avevo il cavo che andava diretto dalla batteria all'abitacolo. E vorrei fare la stessa cosa con quest'altra macchina, passare un cavo, se mai ritirò, dalla batteria, sotto fusibile ovviamente, che finisca nell'abitacolo con due banane femmine, in modo da poter attaccare quello che voglio. E sai cos'è? L'elettrauto mio era morto. Perché non ho la sonda, quella specie di cruna, quell'asta, quell'asticella come se, che è una cruna, no? Tu passi il pezzo di cavetto lì, lo fai passare, trovi uno spazietto nella matassa di cavi che entra nell'abitacolo e il gioco è fatto. L'altro che a cui mi hanno indirizzato al monte non è a Ghana, è sempre a Rubar, e quindi lasciamo perdere. Mi arrangerò in proprio. Antonello ha detto già è facile, per Antonello è tutto facile, però ci serve quella spicella che abbia quella cruna, almeno per che faccia da guida, no? Per il cavo elettrico, no Antonello? Infatti, anzi stavo cervellandomi perché ricordavo di avere una spina. Era una spina tipo sub, no? Dritta. E aveva una scanalatura, però forse guarda, o ricordo male io, Antonella. Era una scanalatura fatta in modo artificioso, cioè in modo. Non era fatta di serie, ecco. Per qualche motivo. E so che in tutta la casa non l'ho trovata, quindi niente da fare. Che poi, vabbè, per quanto ne vale la pena, potrei anche non farlo, ripeto. Vai Nicola. Lo copia adesso? Scusa Nicola, stavo notando che mentre hai fatto l'ultimo passaggio hai toccato anche i 9 più 15 di segnale, 9 più 15, adesso sei 9 più 10, è come che avessi trovato una posizione ideale, anche involontariamente, per cui quasi è meglio, però da Antonello sempre credo inascoltabile, Antonello, confermi? Vai, probabilmente rispetto a me sì. Tu poi mi copierai meglio perché questo apparato c'ha una quarantina di watt in FM, 30-40, potrei abbassare, ma anzi forse è meglio abbassare perché scalda a bestia, è terribile quanto scalda, aspetta, ecco qua, così dovrei avere i soliti 3 watt, dai 3 watt, ok, Nicola mi copia ancora? No. Nessuna richiesta deve essere inoltrata, quindi è stato abolito, sono stati aboliti i 12 euro di contributo e anche la richiesta di inizio attività o come si chiamava, non me lo ricordo più, quindi niente di niente, compri il baracchino, lo accendi e lo usi, tutte le altre regole valgono uguali però. Le altre regole, quindi in teoria baracchino omologato, in teoria niente lineari, eccetera, eccetera. Allora, si parlava di persone che sono state molto poco bene, purtroppo Natalino non sta modulando, sta ascoltando quando se la sente perché adesso io non voglio entrare in dettagli perché non è giusto contro, cioè, per i delatori che magari ci godono, però non sta bene, non sta affatto bene, ecco. Anzi, io lo chiamo se è all'ascolto, se può ribattere, salutare. Natalino, ci sei? Sì, no, ma Natalino è già, c'ha tutto, MFM, banda laterale. E quindi proprio lì dico, Natalino purtroppo è stato molto male. Tuttora non so come stia, però se non entra in radio presumo che non se la senta, ecco. E la vedo difficile, sono molto demotivate le persone, tutti hanno i loro problemi, e vediamo, dai. Non ho sentito nemmeno doppio room da tanto, poi sai, a me non piace stare a trafficare con chat, WhatsApp, come non piace essere tempestato a me di messaggi, non piace nemmeno tempestare di messaggi, ecco, quindi sono molto molto discreto, diciamo, anche sui social, capito Nico? E tu Antone, raccontami qualcosa, io. L'altro giorno la settimana scorsa ho messo che avevo vinto un coso, ho vinto un po' di soldi, non sai quante richieste a me ci sono arrivate, a me erano 15.000 a casa, gli ho detto, cazzo, ma tutti questi, la cazzo, non sono usciti, cazzo, tutti quei soldi erano. Antone, se puoi abbassare appena la modulazione perché è al limite, per essere all'FM è al limite, non ho capito molto me. Ti stavo dicendo che l'altro giorno io ho mandato un messaggio su Facebook, uno ha fatto la fotografia, si è andato su da MD, no, fammi la spesa. Poi ha detto, adesso voglio scrivere, tanto che ho vinto un po' di soldi alla, come si chiama, a gatta e vince, roba del genere. Cazzo, non sai queste amicizie che ho vinto, che mi sono arrivate, cazzo. Non ho scritto quanto ho vinto, perché non ho scritto niente, che non ho vinto un cazzo, erano soldi miei più che altro, che mi hanno messo sulla carta, però cazzo, ma lo sai, 15 richieste di amicizia. Ah ecco, cioè come sanno che diventi ricco, che hai vinto qualcosa, diventano tutti amici, certo, è normale, no? Ma inculati meglio, ma non ho risposto neanche, ma manca un cane, ho risposto, la verità. 15 richieste di amicizia, di donne, tutte donne, cazzo. Ma io ho detto, cazzo, e io sono diventato Latin Lover, era un caldo, c'era un caldo quel giorno, guarda, che era una cosa allucinante, quando sono uscito da MD, erano le 4:15, c'erano 35 gradi quasi, tu figurati, sono uscito da lì e sono andato direttamente a casa, mi sono preso le due bottiglie di birra, me lo avessi in frigge, perché cazzo non ce la facevo più, solo stavo crepando. Naturalmente puoi solo immaginare, no, in caso che uno vincesse una cifra consistente, no? Per non dire diventare ricco. Sì, un bel di richieste di amicizie femminili, ma tu puoi capire che tipo di donne sono, no? Se ti si attaccano solo quando sanno che hai i soldi, eh. È appunto per quello. Infatti è così. Non ho risposto a neanche un cane, la verità. Ma ci ho giocato tutte queste richieste di amicizia che mi stanno arrivando. Una presa all'altra, sembrava che ho preso, ma non ho risposto neanche una, io ho andate a cagare, andate. E ogni tanto queste fregature online, sì, ogni tanto messaggi ambigui, gente sconosciuta che ti contatta e io non rispondo, io cestino direttamente le chat, perché rispondo solo a chi è nell'elenco. Poi c'è un saccaccio di pubblicità, spazzatura, tramite email, tramite messaggi, anche sui social, non ho capito da dove, vabbè, basta che abbiano il numero girerà per tutto internet, se non nel dark web pure. E quindi anche più contatti commerciali hai, più gente alla tua email, più l'email gira e ce l'hanno un po' tutti, no? Gente, attività lecite e attività anche illecite, capito? E quindi ci tentano sempre. Nicola, riprendi che ho bisogno di bere, di prendere l'acqua, dai. Riprendi un po'. Sto dando. Sono arrivato adesso, sta cominciando a piovere, confermi? No, piove no. Sto stando dalla parte tua. Ho visto dove, quando c'è il cielo che diventa tutto strano, sembra chiaro da una parte, lì ci sono i fulmini. Invece quando sono nuvole scarica dall'altra parte. Quindi adesso fra poco ci avremo un bel divertimento. Tu Antone, ricordati, il primo fulmine che vedi in zona tua, sali in punta l'antenna e regolatela. Sì, così almeno cazzo mi dava un pochettino di coso, ma se lo vedono bene, il produttore è Alghero, mi dice, tu guarda che il produttore di Alghero non c'è manco un coso, non c'è niente, sta cucinando adesso se non ti bene. Niente. Non è qui che sta comunque tornando, è dalla parte di Usilo adesso ancora. Dove? Sta cominciando a cucinare un pochettino di più adesso. Vai Nicola. Io sto staccando e sto cominciando a far scendere l'aria. Ciao, a dopo. Allora Nicola, qua stiamo per staccare. Antonello ha staccato subito che è arrivato a Bulutu. Pioggia e tutto. E anch'io staccherò a breve. Latte dolce, sì, in modo grossolano, sì, dimmi. Guarda, io non so dove sia l'oratorio femminile, ma per caso c'è una specie di campetto di calcio vicino, qualcosa del genere con rette, no? Guarda, no, non so esattamente chi sia, però latte dolce ci sono ancora abbastanza CB, o comunque vecchie antenne magari mai tolte, però ci sono attive almeno una, due, tre, quattro, almeno quattro persone diciamo che entrano più spesso, poi altrettante che entrano un po' meno spesso, quindi non saprei dire di preciso. Nico, detto questo, gira gira, io qua stacco tutto, stacco spina, antenna, tutto quanto. Vediamo se mi ha copiato. Nicola, scusa, abbiamo parlato in due. Sì, Nico, comincio a staccare qua, poi vediamo se si calma più tardi, ok? Io per eccesso di prudenza stacco, tutto staccabile, e ci sentiamo, grazie del QSO. Purtroppo Antonello non ti copiava e la situazione è sempre quella, sei un po' infossato lì. Ciao Nicola, buon proseguimento di serata e ci sentiamo. Ehi, ricordati che sei in FM.